Le 13:01. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi blinda il DDL intercettazioni e torna ad attaccare giudici. La sovranità non è più nelle mani del popolo, dice, ma di alcuni PM. Volevo far credere che fosse il mio bambino, racconta l'infermiera di Nocera Inferiore che ha rapito il piccolo Luca. RC Auto in Italia, premi record, doppi rispetto a Francia e Spagna. Stasera gli azzurri volano in Sudafrica, un business, il mondiale, anche per le imprese italiane. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Come avete sentito nei nostri titoli, sta dunque bene il piccolo rapito a Nocera Inferiore, ritrovato, come sapete, nella notte. Ne parleremo diffusamente più avanti, perché in queste ore ci sono novità anche sul fronte politico. Cominciamo dall'accordo che sembra raggiunto nella maggioranza sul fronte delle intercettazioni e ci colleghiamo con Roma e con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì, Piera, sarà un testo blindato quello che verrà approvato dal Senato sulle intercettazioni. Questo è uscito dal vertice del PDL. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi avverte quindi il Presidente della Camera Gianfranco Fini. Il testo che passerà al Senato non dovrà essere toccato nella terza lettura a Montecitorio. Ma sentiamo il Presidente del Consiglio. La situazione parlamentare, le lobby dei magistrati, le lobby dei giornalisti hanno impedito di arrivare ad un testo che difenda al 100% quello che secondo me è un diritto fondamentale, che è il primo contenuto del nostro diritto di libertà. Un paese che sia una vera democrazia, che deve garantire la libertà di tutti i cittadini, deve anche garantire in assoluto la loro riservatezza e il loro diritto alla privacy. Fare le leggi è un calvario quotidiano, prosegue Berlusconi. Quando una legge esce dal Consiglio dei Ministri, magari tu avevi pensato ad un cavallo ed esce fuori un dromedario. L'attività di governo continua poi, il Premier è faticosa, il Presidente del Consiglio non ha alcun potere e per Berlusconi la sovranità non appartiene più al popolo. Sentiamo. Oggi la sovranità non è più del Parlamento, la sovranità è passata a questa corrente della magistratura, ai suoi PM, che attraverso la Corte Costituzionale abroga le leggi che non piacciono a loro perché diminuiscono il loro potere. E per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Sarà intanto la Corte Costituzionale a pronunciarsi anche sulla legittimità della conferma da parte del governo del segreto di Stato posto dall'ex numero uno del Sismi Nicolò Pollari e dall'ex funzionario Pio Pompa nel corso delle indagini sul presunto archivio riservato trovato in Via Nazionale a Roma. Lo ha deciso il GUP di Perugia nel corso dell'udienza preliminare nella quale i due sono accusati fra l'altro di peculato. Il giudice ha infatti sollevato un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Come dicevamo, Silvio Berlusconi è all'assemblea di Federalberghi dove si discute anche dell'altro tema politico, la manovra. Ci colleghiamo dunque con Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Se sarà introdotta la tassa di soggiorno riguarderà solo la città di Roma, ma si deciderà solo dopo un tavolo fra il sindaco e le mani e gli albergatori. L'ha appena annunciato il Presidente del Consiglio Berlusconi concludendo il suo intervento all'Auditorium di Roma, dove è da poco terminata l'Assemblea Nazionale di Federalberghi. Il Presidente degli albergatori Bocca ha chiesto a Berlusconi di non introdurre la tassa di soggiorno nella capitale perché la definisce un gravissimo errore. Il Premier la considera invece un'estrema ratio per sostenere i debiti lasciati dagli ex sindaci di centrosinistra della capitale, Veltroni e Rutelli. Ci sono 200 milioni di euro da risanare, ha detto Berlusconi. Agli albergatori che gli chiedono anche di abbassare le tasse, il Premier risponde che questo si farà non appena possibile, si partirà dall'IRAP. Berlusconi inoltre concorda con il Presidente di Federalberghi sulla necessità di promuovere di più il turismo italiano, specialmente per gli italiani. Spendete soldi qui per dare una mano a uscire dalla crisi, ha detto il Premier, anticipando l'annuncio di una norma per la liberalizzazione dell'impresa alla quale sta lavorando con il Ministro Tremonti. Da Roma è tutto, linea a voi. E grazie anche a te Maria Chiara Grandis. Intanto la manovra italiana ha incassato un sostanziale sì dall'Europa. A Lussemburgo c'è Dino Pesole. Sì, buongiorno. Ieri sera il presidente dell'Eurogruppo Juncker, questa mattina il commissario agli affari economici Olli Rehn, hanno sostanzialmente dato il via libera alla manovra correttiva dell'Italia. Sia l'Italia che la Francia, ha detto Rehn, hanno preso decisioni importanti. Una valutazione più nel dettaglio sarà effettuata dalla Commissione il 15 giugno a Strasburgo, quando la stessa Commissione dovrà decidere sulle procedure di infrazione per deficit eccessivo. Il via libera di Bruxelles, la manovra correttiva da 24,9 miliardi, è importante per Tremonti, perché la manovra affronta proprio in questi giorni un esame parlamentare che si annuncia insidioso. Per questo il ministro insiste sul carattere, come dire, europeo della correzione da 25 miliardi, una correzione imposta da Bruxelles fin dallo scorso mese di dicembre, osserva Tremonti, quando il Consiglio Ecofin raccomandò all'Italia di ridurre il deficit al 3,9% del PIL nel prossimo anno e al 2,7% nel 2012. Modifiche alla manovra sì, ma senza alterare i saldi e la composizione delle misure, dice Tremonti. L'Italia peraltro ora dovrà alzare l'età pensionabile per le donne del pubblico impiego da 60 a 65 anni entro il 1 gennaio 2012. Il governo prevedeva invece un percorso più graduale da qui al 2018. Questa mattina, infine, il Consiglio Ecofin si è accordato per l'ingresso dell'Estonia nell'euro. Ora la parola passa ai capi di Stato e di Governo. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Dino Pesole. E gli occhi dell'Europa sono naturalmente puntati in queste ore anche sull'Ungheria, dove nonostante le promesse elettorali delle settimane scorse, il governo di Viktor Orban dovrebbe annunciare fra poco aumenti delle tasse nel quadro di un piano di risanamento che mantenga le promesse fatte al Fondo Monetario Internazionale. Tutti i dettagli ve li daremo appena arriveranno, anche nel corso delle prossime edizioni di GR24. Intanto un nuovo segnale di timore arriva dai mercati, perché questa mattina il prezzo dell'oro ha segnato un massimo record superando i 1.250 dollari l'oncia negli scambi europei. L'oro è tradizionalmente un investimento rifugio. Restando alla pagina economica, andiamo invece a Torino, dove si decide del futuro dello stabilimento Fiat di Pomigliano. Siamo in collegamento con Paolo Piacenza. Buongiorno, qui a Torino prosegue presso la sede dell'Unione Industriale la trattativa tra Fiat e sindacati sull'organizzazione del lavoro a Pomigliano. Di fatto dalla trattativa sulla fabbrica campana dipende non solo il futuro dei 5.000 dipendenti dello stabilimento, ma anche quello degli altri siti produttivi in Italia, perché una rottura potrebbe portare a uno stop del piano Fabbriche Italia voluto dal Lingotto per portare la produzione nazionale di veicoli a 1,6 milioni entro il 2014, con il conseguente spostamento di molte produzioni fuori dal paese, cioè il temuto piano B. Se invece verrà firmata un'intesa, la strada per gli altri accordi sarebbe spianata. In questo momento la trattativa appare lunga e difficile. La FIOM in particolare è disponibile all'intesa, ma senza le clausole antisciopero, antisenteismo, perché derogano al contratto nazionale e alle leggi. Ma sentiamo cosa ci ha detto entrando Enzo Masini, responsabile del comparto auto per la FIOM CGIL. Se permangono le violazioni a norme di legge e al contratto nel modo in cui la Fiat li ha messi su un documento consegnato la scorsa settimana, no, assolutamente no. Se si ragiona degli spazi inerenti invece turnistica, organizzazione del lavoro, pensiamo si possa raggiungere un accordo, ma tutta una serie di elementi vanno sfilati. Non è possibile fare un accordo sulle basi proposte dall'azienda. Qualche minuto fa la delegazione Fiat si è ritirata in un'altra stanza per valutare le osservazioni dei sindacati. Battute off the record confermano però che il clima è piuttosto teso e l'intesa non sembra vicina. E da Torino è tutto. Grazie, grazie a Paolo Piacenza. Saremo dunque a vedere come andrà a finire oggi a Torino sul tavolo per Pomigliano. Invece ora parliamo di un'iniziativa tutta nostra del gruppo Sole 24 Ore. Sfogliare virtualmente il codice atlantico di Leonardo per osservarne particolari altrimenti invisibili. È questa una delle tante porte che si aprono nel viaggio ai segreti della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che vede il Sole 24 Ore alleato con Alfabeti, l'Ambrosiana stessa e la De Agostini in un progetto multimediale inedito e fruibile da tutti grazie al web sul sito www.ilsole24ore.com. Un'occasione davvero da non perdere per verificare come la multimedialità e la realtà virtuale ci permettano di ammirare in modo nuovo le opere più rappresentative di uno degli scrigni dell'arte e della cultura italiana, dove oltre alle massime opere del genio di Vinci sono custoditi la canestra di Caravaggio, la Maddalena di Tiziano, le allegorie di Bruegel e tante altre opere. Massimo Esposti, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 vi abbiamo riferito delle parole di Berlusconi che blinda il DDL intercettazione e torna ad attaccare duramente i giudici. La sovranità, dice, non è più nelle mani del popolo ma di alcuni PM. E poi ci siamo trasferiti a Torino dove si discute del futuro di Pomigliano. Stiamo naturalmente parlando di Fiat, ma al momento l'accordo non sembra a portata di mano. E ripartiamo invece in questa seconda parte di GR24 dalla cronaca, ripartiamo dalle indagini sul sequestro del piccolo Luca, come sapete rapito ieri e per fortuna ritrovato nella notte. Voleva nascondere all'uomo con cui aveva una relazione di essere abortita e gli aveva presentato come loro figlio appena nato il piccolo Luca Cioffi, il neonato rapito ieri mattina dall'ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Anna Rita Buonocore, 42 anni, infermiera in servizio all'ospedale Cardarelli di Napoli, per spiegare la presenza del bimbo alle sue due figlie di 20 e 11 anni che vivono con lei, aveva detto loro che quel neonato le era stato affidato da un'amica per qualche giorno. La stessa giustificazione ha cercato invano di darla anche ai poliziotti che hanno eseguito il blitz, ma nessuno le ha creduto. A far quadrare il cerchio agli investigatori per poi arrivare al ritrovamento del bimbo è stato un ex vicino di casa della rapitrice, un insegnante di Nocera Inferiore. Lo ha raccontato il procuratore di Nocera Inferiore Gianfranco Izzo. Ha comunicato di ricordarsi che nel pomeriggio aveva incontrato nei locali dell'ospedale di Nocera Inferiore questa donna che egli aveva conosciuto in passato per avere entrambi abitato nello stesso stabile, che non vedeva da molto tempo, e correggete mi sentito qualche inesattezza, e che aveva tra le braccia un bimbo molto piccolo, circostanza che non lo aveva allarmato, non lo aveva nemmeno incuriosito a quanto sembra. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Nocera Inferiore. E l'episodio di Nocera Inferiore ha riaperto il dibattito sul livello di sicurezza e sulla sorveglianza negli ospedali. Le telecamere erano guaste da tempo, ha dichiarato il direttore sanitario dell'ospedale Umberto I, dove è avvenuto il fatto. Identificazione dei neonati e del personale sono le regole imprescindibili, dice al microfono di Maria Luisa Pezzali Daniele Farina, responsabile del reparto di neonatologia dell'ospedale Sant'Anna di Torino, ospedale primo in Europa per numero di nascite. Al momento della nascita c'è un sistema molto preciso di braccialetti, identificazione madre figlio e addirittura con una matita dermografica per scrivergli il nome sul petto. Questo per l'identificazione. Il bambino non viaggia mai da solo, tutte le pratiche le facciamo in camera della mamma in modo che questo bambino non vada in giro per l'ospedale mai. Un bambino non si muove dalla camera se non è accompagnato dalla mamma o dal papà o da una delle nostre infermiere. Tutto il personale, medici compresi, è identificato, nel senso che sui camici, sulle magliette, sulle divise c'è divisione di appartenenza e nome di chi ce l'ha addosso, per cui non esiste che uno si metta un camice a caso e spacciandosi per qualcosa entri. Avete anche un sistema di telecamere a circuito chiuso interne? No, interno non l'abbiamo e non possiamo averlo, che sarebbe una violazione della privacy spaventosa. Delle telecamere di sorveglianza sono messe nelle porte d'ingresso dell'ospedale, cioè nel caso di quello che è successo a Nocera, credo che la signora in questione sarebbe stata ripresa all'ingresso e all'uscita. RC Auto, stamattina la relazione annuale del presidente dell'ISVAP Giancarlo Giannini e non sono buone notizie. Savino Gallo. Sì, buongiorno. È il ramo dell'RC Auto, il vero tallone d'Achille del settore assicurativo italiano. Stando alla relazione annuale 2009 dell'ISVAP presentata questa mattina, il settore ha tenuto abbastanza bene, specie per quanto riguarda il ramo vita. Diverso il discorso per le RC Auto, le cui tariffe sono in costante aumento. Un'anomalia tutta italiana, specie in riferimento ad altri paesi europei. Nei primi quattro mesi del 2010 le tariffe delle RC Auto sono praticamente doppie rispetto a quelle della Francia e della Germania. il tutto per la sostanziale differenza nella quantità di sinistri registrati e nei costi della loro liquidazione. Insomma, persistono frodi e evasione, ma non è quella dell'aumento delle tariffe, secondo il presidente dell'ISBAP Giannini, la strada per combattere tali fenomeni. Bisognerebbe, ha concluso il presidente, potenziare le strutture di vigilanza e di liquidazione dei sinistri. E da Roma è tutto. Grazie, grazie a Savino Gallo. E parliamo invece di maturità. Le regole sono giuste, ma ci vuole buon senso. Perciò il liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano è stata interpretata in maniera elastica la nuova norma ministeriale che impone il 6 in tutte le materie per accedere agli esami di Stato. Il preside Michele D'Elia al microfono di Matteo Finco. Le insufficienze uniche, il consiglio di classe ha la facoltà di arrotondarle a 6. Dopodiché, siccome il voto è collegiale, il professore lo propone, sta all'equilibrio del preside e del collegio docenti creare le situazioni equilibrate per cui se uno merita di non passare non viene ammesso agli esami. Ma difficile che possa accadere che per una sola materia il ragazzo venga penalizzato. Noi abbiamo ammesso quasi tutti agli esami. Coloro che non era possibile salvare sono stati lasciati fuori dall'esame, non sono stati ammessi, ma la singola materia ha influito, direi, pochissimo. E andiamo al calcio, non quello sul campo, non quello di Sudafrica 2010, di cui pure parleremo fra pochissimo, ma di quello delle polemiche politiche. Fa ancora discutere la proposta del ministro Calderoli, che ha chiesto al mondo del calcio di darsi una regolata sul fronte degli ingaggi. Nel nostro sondaggio odierno vi chiedevamo se secondo voi sia giusto mettere un tetto agli stipendi per i calciatori, e hanno vinto nettamente i sì con il 76%. Il presidente dell'associazione calciatori Renzo Ulivieri al microfono di Alessandro Milan. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di crisi, Calderoli ha detto questo: ci sono persone alle quali l'acqua arriva alla pancia, ci sono persone alle quali l'acqua arriva al petto, ci sono persone alle quali l'acqua arriva alla bocca. Andando giù ci sono persone alle quali l'acqua arriva alle ginocchia e persone alle quali l'acqua arriva alle caviglie. I calciatori fanno parte di coloro ai quali, i calciatori della nazionale, l'acqua arriva alle caviglie. E quindi sono d'accordissimo, e l'ho detto anche ieri, dove secondo me non si può essere d'accordo, è nel metodo. Voglio dire, un politico, una della maggioranza, un ministro in special modo, non è che va a fare la questua, ha gli strumenti a che queste cose si realizzino. Ed ora invece voliamo in Sudafrica, dove c'è per noi Dario Ricci. Sì, buongiorno da Johannesburg, siamo a Chester Road negli uffici dell'Istituto del Commercio Estero Italiano. Arriveranno fra poco gli azzurri, allora proviamo a capire come si sta preparando anche la comunità italiana ad accoglierli. Il nostro ospite è Giampaolo Bruno, direttore del Lice di Johannesburg. Allora, dottor Bruno, pronti per l'arrivo della nazionale dei ricchi? Cosa state preparando? Assolutamente pronti, qui c'è un'attesa febbrile per l'arrivo della nostra nazionale, tutta la comunità italiana, che qui è molto vasta, è impegnata nell'accoglienza dei nostri prodi e ci saranno una serie di iniziative a favore della nostra nazionale presso Casa Azzurri e quindi ci stiamo preparando tutti con gran fermento a questo appuntamento. C'è un mondiale che l'Italia ha già giocato, no, dottor Bruno? Quello degli investimenti in vista proprio di Sudafrica 2010. Beh, rapidissimamente, com'è andata? Possiamo dire mondiale vinto, pareggiato? Ci sono state delle aziende protagoniste? Sì, dunque c'è stata una buona proiezione delle nostre imprese nelle varie opportunità di affari associate all'organizzazione dei mondiali di calcio. Forse si sarebbe potuto fare di più, però ci possiamo anche accontentare. Molte delle nostre aziende hanno approfittato di queste opportunità, abbiamo avuto notevoli commesse per quanto riguarda la costruzione degli stadi, la costruzione di strade e altre infrastrutture. Strutture di trasporto e anche infrastrutture sportive. Beh, allora un'ultima battuta da tifoso, dottor Bruno: vinto questo mondiale degli investimenti, ce la facciamo a fare il bis di Berlino a Johannesburg? Assolutamente sì, attendiamo di nuovo la nostra coppa che è nostra. Bene, con questo auspicio vi salutiamo da Johannesburg. Grazie, noi ringraziamo Dario Ricci. Questo GR24 che si conclude qui è stato curato da Anna Migliorati e Maria Piera Ceci, che lo ha anche condotto. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.